era. E 17 e 16 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default, andiamo in onda anche oggi con questa puntata speciale di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento, purtroppo in questi giorni solo di aggiornamento, dalla Palestina occupata sotto attacco. Ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it, dove potete venire a sentire le nostre, dove potete sentire le repliche delle trasmissioni, tutte le varie trasmissioni che questa radio manda in onda, oltre a poter trovare il nostro palinsesto e le nostre iniziative di autofinanziamento vitali per questa radio. Ricordiamo la nostra pagina Facebook, Radio Default, dove potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che avviene, su ciò che viene trasmesso dai microfoni di questa radio. E infine potete venirci a trovare in quel di Genzano di Roma, a via Guidobaldi 56, vi pigliate una birra, conoscete la redazione e sostenete anche appunto attivamente questa radio che non campa di aria. E quindi passiamo subito agli aggiornamenti. Siamo ormai al 15° giorno di attacco sionista contro la striscia di Gaza e contro la Palestina in generale. 15° giorno di bombardamenti a tappeto su quella che è il più grande carcere a cielo aperto del mondo. Oggi purtroppo abbiamo, come abbiamo detto prima, queste puntate speciali, che visto che dovevamo andare in ferie come la gran parte delle trasmissioni di questa radio, ma purtroppo la cronaca ci costringe a stare qua, E quindi poche analisi, tanti aggiornamenti. Innanzitutto, oggi il conto dei morti delle vittime palestinesi ha superato le 600 persone. E questo, ricordiamo un'altra volta, questo è il quindicesimo giorno di attacchi continuati sulla striscia di Gaza. Le ultime vittime sono state tirate fuori dalle macerie di una abitazione del quartiere di Shayye, scusate la pronuncia, dal quartiere di Zaitun, sono due 65enni, Muhammad Khalil Lail e Hamada Eliwa. Un altro corpo non identificato è stato, cioè un'altra persona non identificata è stata uccisa in un attacco mirato mentre stava in macchina a Beit Lahia, nella parte settentrionale della striscia di Gaza, mentre altre tre vittime che ancora devono essere identificate sono morte nel quartiere di Tufa, a Gaza City, in seguito a dei colpi di artiglieria. E prima di questi ultimi, appunto, di questi ultimi morti, c'era stato il 22enne Mahmoud Salim Mustafa Daraj, che è morto a causa delle ferite riportate nei giorni precedenti nel campo profughi di Jabalia, nella parte settentrionale della striscia. E quindi, appunto, continua la triste conta dei morti con delle pratiche terroristiche da parte dell'esercito dell'occupazione, esercito dell'occupazione che domenica ha compiuto un vero e proprio massacro, appunto, nel quartiere che abbiamo detto prima, un quartiere densamente popolato di Al-Shijaiya, in cui nella sola giornata di domenica sono state uccise 62 persone e a quanto pare, appunto, visti i corpi ritrovati oggi, appunto, il conto dei morti è salito. Giornata di domenica che ha visto un centinaio di vittime complessive, appunto, di cui il 60%, più del 60% soltanto in questo quartiere densamente popolato su cui le forze d'occupazione hanno fatto ricadere una salva di propaganda con messaggi telefonici agli abitanti del quartiere, lancio di volantini dicendo: guardate che noi domenica bombarderemo il quartiere, quindi vedete di andarvene, vedete di sgomberare il quartiere. La popolazione non se n'è andata per vari motivi. Il primo motivo è che molti dicono: ok, questo errore l'hanno già fatto i nostri antenati nel 1948, quando lasci la tua casa, poi non sai mai se ci torni. Un altro motivo, forse non così inferiore rispetto a quello che ho già detto, è che nella striscia di Gaza, nel posto dove con la più alta densità abitativa del mondo, è difficile sfollare 100.000 persone e appunto rilocarle e farle andare via dai propri quartieri. Di tutto questo, ovviamente, l'entità sionista se ne è fregata altamente. Sono lavati la coscienza mandando gli SMS agli abitanti della striscia, di quel quartiere, e poi, senza considerare se appunto i civili erano andati via o meno, hanno preso e hanno bombardato per un'intera giornata. Ecco, i morti sono. E oggi. E quindi, oltre a questo massacro, diciamo che questo massacro in questo quartiere ha innalzato la conta dei bambini morti a 154. E arriva e conseguentemente arriva anche l'emergenza umanitaria. Cioè, l'emergenza umanitaria c'era già prima, ovviamente. Se fai 600 morti in 15 giorni, un'emergenza ce l'hai. Ma il fatto che siano andati scientificamente, l'aviazione sionista si è andata scientificamente a colpire anche gli ospedali, ha fatto sì che i medici hanno mandato dei comunicati dicendo che non sanno più né dove mettere i feriti, né tantomeno dove mettere i cadaveri dei martiri di questi giorni. E quindi i dottori della Striscia di Gaza stanno accalcando i corpi dei 600 martiri nelle strade. Inoltre ricordiamo che oltre a aver distrutto gli ospedali, hanno distrutto anche un ospedale specifico per la riabilitazione delle persone diversamente abili. E quindi un altro obiettivo, potremmo dire, chiaramente terroristico. Quindi la conta dei morti è salita, però i morti fortunatamente non sono solo dalla parte palestinese, ci sono all'incirca una quarantina di morti tra gli occupanti, soprattutto a seguito del tentato attacco di via terra che ha visto tutte le fazioni della resistenza rispondere all'invasione, e quindi una quarantina di morti che purtroppo sono sempre troppo pochi, anche se noi ogni morto o tra gli occupanti noi ne gioiamo, e soprattutto pare che le brigate Ezzedine al-Qassam, braccio armato del movimento di resistenza islamico Hamas, siano riusciti a catturare un soldato occupante. Domenica, in una conferenza stampa, il leader militare delle brigate Ezzedine al-Qassam, Abu Obeida, ha dichiarato di aver che il proprio gruppo armato aveva catturato il 21enne il sergente Oron Shaul, di cui ha esposto anche un numero di matricola 609-2065. Non è ancora arrivata conferma dalle autorità sioniste, che invece oggi hanno dichiarato: sì, abbiamo disperso abbiamo un soldato disperso che risponde al nome di Shaul Aaron. Abu Beida aveva detto di ha chiamato il soldato Shaul Aaron, e invece l'esercito sionista si chiama Oron Shaul. Insomma, noi speriamo, lettura, pronunce dei nomi a parte, noi ovviamente speriamo che questo soldato possa essere scambiato con tanti prigionieri palestinesi, come avvenne già con il precedente soldato dell'occupazione Gilad Shalit, catturato nel 2009 da un'operazione della resistenza e scambiato nel 2011 con un migliaio di prigionieri politici palestinesi. Ovviamente sempre che il soldato non muoia sotto le bombe dell'occupazione, come stava succedendo proprio a Gilad Shalit. Ricordiamo che all'inizio l'operazione Piombo Fuso, l'operazione di massacro che le forze d'occupazione hanno svolto a cavallo tra il 2009 e il 2010, doveva servire proprio a liberare questo soldato. Fatto strano, nelle sue lettere, e una volta liberato, Gilad Shalit ha dichiarato che è sempre stato trattato molto bene dalla resistenza. Gli unici rischi che aveva vissuto era proprio durante Piombo Fuso, perché rischiava che la sua prigione, tenuta ovviamente segreta, potesse essere bombardata e lui appunto morire per mano sionista. Quindi appunto noi ribadiamo la speranza che questo qua se lo piglino e lo scambino con tanti prigionieri, vivo o morto poco ci importa. Noi facciamo un breve stacco musicale, ci andiamo a sentire i Dem, che cantano con Shadia Mansour, Badi Salam. Yeah. الاطفال بمراسي مجنون ولجنون الفنان يرسم مع شعبي خدود مليان دموع يحصد الارواح ويروح من غير من وين رايح من وين جاي صحيت عجنون رسم له اسهم دخول تفضل معي البداية اعلم اننا في دولة قالوا لنا في سلطة يلا شاركونا بديمقراطية يلا فلسطين في انتخابات حرة استنى بعلي في علامة سؤال تدوي بقوة منذ متى الديمقراطية تيجي قبل الحرية سألت الامة بس سؤالي طفى عبال ادواوا الكاميرات عشان كانوا عقفة من يشيل الاحداث مسلطين عدسات الشعب ماسك ورا عشان اليوم يوم عطلة في انتخابات الكل مدندن طول الدنيا سامع طرب بطريقه للبوكسة علم حظ التمثيلية مثلناها منيح فريق نزل فريق طلع طيب فريق لازم يزيح تمثيلية كان الهني هي مفاجئة العالم فكر ما تصير زعلوا منا صارت مقاطعة انا بناديها تهزيل هذا البداية اللي بدنا اياه شكله مزحنا عتقيل واحنا ما فهمناش ايش بصير هي ليش الجماعة زعلانين غريب عجيب فكرتهم كيفين على تقرير المصير هي الوجه المفروض لبس توب التكشير اقتراعنا مرفوض المقاطعة تحت التنفيذ تقول الاحتلال العقود ما كفف نفوذ العالم يد وحدة التفة بفلسطين الجوع اتفشى واحنا جوعنا فتوحمنا الحم بعضنا طعجنا بوزن فرود عوجونا وعزنا ضغطنا عصرنا تم اسرائيل خلص تتعبيش احنا بنصفي حالنا بحالنا ولما تبكي عشان ابنها انقتل من اللي كانت تناديهم زلمنا هذا البداية اللي بدنا اياه جهن بعلامات المفاجأة كان يتفنن أن عن النهوب يتألم مسكين خضينا بعملنا البربرية هو من العالم متحضر متعود ينسب طريق غرات جوية متعود ما يتطلعش ما يتأملش بينين الضحية بيتحملش المنظر ما تحضر صار عنده مذابح اوتوماتيكية هلا عامل حاله زعلان على الوضع على القضية بيبكي بعين والتاني مشغلها بغمزة صهيونية فلسطينية أصبح عندي الآن بندقية خذوني معكم بس مش لحرب أهلية فلتوا العصبية في البيت احنا مش ناقصين يا عم اطلقتوا صراحي جاهلية في الوطن والجالية عطتنا دم شفت جنون راح ينكتب التاريخ سم كله مسموم واحنا بنحمي مع العافيه سم ناخد جرعه بنمشط وبنرش كنا بدنا سلام مع العدو ولا بدنا سلام مع حالنا بنمشط وبنرش شو صار في الشعبية E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento sulla Palestina occupata. Ovviamente ricordiamo, appunto, queste sono le puntate speciali per avere aggiornamenti sui massacri in corso in questi giorni, appunto, in Palestina. Abbiamo detto entità sionista che in questi giorni sta colpendo obiettivi civili, come è impossibile non fare nella striscia di Gaza, che ricordiamo essere la zona con più alta densità di popolazione al mondo, obiettivi civili che sono case, scuole dell'Urwa, ospedali, moschee, gente che si guarda la partita, la semifinale dei mondiali. E anche oggi sono arrivati addirittura ad intimidire la stampa, cosa nuova diremmo noi che seguiamo la questione. Oggi le forze dell'occupazione, infatti, riprendiamo la notizia dal quotidiano libanese Al-Akhbar, le forze d'occupazione hanno sparato dei colpi di avvertimento agli uffici, al palazzo che ospita gli uffici di Al Jazeera e dell'Associated Press. Colpi di avvertimento che hanno costretto lo staff dell'emittente qatariota a dover evacuare l'edificio. E tutto ciò avviene il giorno dopo che il ministro degli esteri dell'entità sionista, Avigdor Lieberman, un nazista appartenente al partito Israel Beitenu, Israele Casa Nostra, un partito dell'estrema destra attualmente alleato con il partito Likud di Netanyahu e esponente appunto che la nostra ministra degli esteri, la Mogherini, ha incontrato la settimana scorsa ad Ashdod. Insomma, questo tizio che è sempre stato molto sempre rilasciato tante dichiarazioni abbastanza imbarazzanti per un qualsiasi governo, non dico moderato, ma anche vagamente attento alla diplomazia internazionale, sto tizio ha dichiarato qualche giorno fa che andava chiusa il canale Al Jazeera andava chiuso perché appunto sostenitore di Hamas e riportante in notizie che incitano all'antisemitismo e quindi possiamo dire che questi colpi, casualmente il giorno dopo vengono sparati questi colpi di avvertimento contro questo canale, in un posto poi in cui tra l'altro appunto è anche presente la AFP, e quindi possiamo considerarlo né più né meno che un incitamento a distruggere gli edifici dei media. Ovviamente questa è la stampa blasonata, perché non sempre i giornalisti sono ovviamente sotto attacco. Il corrispondente del TG1 l'altro ieri sera dichiarava che Israele non garantisce la sicurezza né degli cooperanti internazionali né ovviamente dei giornalisti. E infatti domenica il giornalista Khaled Ahmad, di 25 anni, è stato ucciso da un bombardamento israeliano mentre cercava di dare una copertura mediatica al massacro del quartiere di Al-Shujaya, come si chiama, appunto 74 persone uccise nel massacro, maggior parte donne, bambini e anziani, e tra cui anche questo ragazzo, perché 25 anni è un ragazzo, dotato di pettorina, della consueta pettorina che i giornalisti portano in zone di guerra, in cui c'è scritto stampa in inglese, quindi non si poteva confondere né per un membro della resistenza né per una qualsiasi altra cosa, ed è morto insieme a un medico di 28 anni, Fuad Jaber. E quindi i giornalisti sono anch'essi sotto attacco. Passiamo invece all'agenzia di stampa Ma'an, che riporta un comunicato del ministro dell'economia nazionale della cosiddetta autorità nazionale palestinese, Mohammad Mustafa, che ha dichiarato ieri che i danni in questi primi 15 giorni di guerra, di aggressione unilaterale alla striscia, si sono avuti circa 3 miliardi di dollari di danni nella striscia di Gaza, a fronte di un prodotto interno lordo stimato di 1,8 miliardi, quindi quasi ciò che la striscia di Gaza produce in un anno è poco più della metà dei danni che sono stati fatti in 15 giorni. Ovviamente il ministro ha dichiarato che ovviamente si parla di infrastrutture. Oggi è stata colpita addirittura una fabbrica, quindi il prodotto interno lordo della striscia di Gaza calerà sicuramente a meno di 1,8 miliardi di dollari, e questo appunto a causa del continuo bersagliamento di abitazioni, fattorie, infrastrutture sanitarie, sociali ed economiche. E quindi e ciò comporta poi anche un problema di approvvigionamento di cibo, perché appunto è stato distrutto, era già stato distrutto il primo pollaio della striscia nel 2009 da parte di durante piombo fuso, è stato distrutto un altro pollaio, è stata oggi distrutta un'altra fabbrica. Questo significa che c'è poca possibilità di far arrivare distruggere la già scarsa produzione interna di cibo, e dall'altra chi lavorava in quei posti, se è sopravvissuto, se non era al lavoro mentre il proprio posto di lavoro veniva bombardato, si ritroverà senza uno stipendio e a non poter sopravvivere se non tramite le associazioni caritatevoli. E quindi questo è il lato economico dell'assalto unilaterale contro la striscia di Gaza. Assalto che tra l'altro ha visto anche la voce critica, niente poco di meno che il segretario di Stato statunitense John Kerry, che in un fuori onda si è pronunciato in maniera abbastanza dura nei confronti appunto le campagne dell'entità sionista. Ovviamente non ci basta che lo dica in un fuori onda come sfogo a qualcuno, magari sarebbe utile che il ministro degli esteri della più grande potenza economica, no, magari economica no, non più, però della più grande potenza militare mondiale, nonché maggiore sostenitore militare ed economico dell'entità sionista, facesse qualche dichiarazione pubblica e non come è successo al Senato statunitense, dove con una votazione di 100-0 la Camera Alta degli Stati Uniti d'America ha votato quindi all'unanimità una mozione di sostegno all'entità sionista. Noi facciamo un altro stacchetto musicale, questa sono i Revolution Makers, gruppo rap della striscia di Gaza, e questa è What's Going On. أتمنى إني أحكي لما حكي ظلمت أخوي دعست وأنا بمشي ما كانش ببالي أدعس بس كان يسلمني كل يوم بتعاطى مع إني مجرمي حاكمني عودنا نخترع الصبر فنقلب الخرابة جنة نشوف الحياة أجمل حياة مع إنها مزلة بنعيش شوشرة بتبعثنا على القبر بدون فيزا نحكي مش مهم المهم بدون فضيحة نعجم مأساتنا بالكاميرات ما نستحي نفضح المحتاج أساس بنساعد ونفتح كم مرة بنبرم ونحاضر كم مرة بنخلص ما نناقش كم مرة بنهتف وما نحاسب كم مرة نخف ونطنش تسألني كيف نحل كيف نبلش حاسب روحك قديش غالي عشان ما تطنش حط نفسك في مخيم عشان تعرف تبلش خلينا نحس في كرامة بعض ما سلمش نتمنى حياة ما تكونش الأرخص فيها دم النظام يا فخامة أولاد البلد بصرعوا في الخروج ما تبدنا ننهي هاي الدراما ابن البلد بفضل الإقامة في خارج البلد ليبني المستقبل بدل ذلو إهانة إيش النظام يا فخامة الشعب ناسي احتلال الوطن همه فكر الكهرباء ما تجايا الشعب فكره ملهي في روتينه اليومي شغل كهرب صلر بنزل معطوه في العادة بشكل يومي مش عاجبه فني لأني بوصف واقع وأنا بغني بصورة اختلاف لمستمع وأنا مؤدي فني في اعتقاده بانتقاد باسلوب نظام محرم وهو منزل باسم الملك الفخامه المعظم سيد الفخامه ركز حيل للشعب في تغيير الدين توحيد وطن بدناش حدا يساعد حل المشاكل للإخوة بسيط بس فيني مكبره في دخول طرف ثالث عامل مضطر عم هيعبره نتمنى حياة ما تكونش الأرخص فيها دمنا الحقيقة مش شايف منك معمي توقف الشو قدامي ارجع خطوة خليك حدي وين البساطة ليش راسك بتعلي ما احنا غرقانين بنفس المشكلة ليش تهددني ما انا اخوك وبالدياني ليش تستنى اوقع ليش تنزرع الخيانة ليش نحفر لبعض وعلينا يتفرجوا ليش نفش غليلهم وفينا يتشمتوا لازم هالصفحة تنقلب عشان ولادنا ما تجرب غلطة دفع تمنها شع مسكين زلي مش عارفين نعدي مطب لازم ننضب ونستحي عحالنا بدل ما ننشر غسيلنا والعالم اقبالنا يا اخوي بترجاك باسم الوطن واللي راح بصلي للوحدة وبدعي للي ضحوا لازم نوقف محلنا لنقدر نكمل أنا وإنت بيدينا مع بعض بنعلم ما يكونش الأرخص فيها دمنا تتحدى اللي فاتنا يا إخوان نتمنى حياة ما تكونش الأرخص فيها دمنا تكون أيامنا تتحدى اللي فاتنا نعيش نفكر في مستقبلنا مستقبلنا إن كل بعض لبعض يا إخواننا E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione, qua partono le canzoni, la trasmissione di purtroppo aggiornamento su ciò che sta avvenendo nella Palestina occupata sotto i bombardamenti dell'entità sionista. E ricordiamo, quindicesimo giorno di bombardamento, 600 i morti, migliaia i feriti e altrettante migliaia gli edifici civili distrutti, tra cui ospedali, biblioteche, scuole, chiese, moschee e via dicendo. Tutto questo, ovviamente la striscia di Gaza non è sola, grandi manifestazioni sia dentro la Palestina che in tutto il mondo stanno avvenendo in solidarietà con il popolo palestinese, martire appunto dell'occupazione. E ricordiamo la manifestazione, la Francia ha vietato le manifestazioni a sostegno della Palestina, Francia che appunto il buon Hollande tra il socialismo e la barbarie pare che abbia scelto evidentemente la seconda opzione. E manifestazioni in West Bank e anche azioni di solidarietà. Lo scorso fine settimana gruppi di attivisti vicino Ramallah hanno tagliato le i tralicci delle elettriche che fornivano l'elettricità alle colonie dei territori occupati nel 1967, mentre ieri i palestinesi che abitano i territori occupati nel 48, quelli che qualcuno chiama arabi israeliani, sono scontrati a Nazareth con la polizia durante una manifestazione di protesta appunto contro gli attacchi. Questi scontri a Nazareth, come sono avvenuti anche nelle città della West Bank, sono avvenuti per le manifestazioni indette per sostenere lo sciopero generale dei palestinesi di tutta la Palestina, sciopero generale sostenuto dalle da tutte le organizzazioni nazionali ed islamiche della società palestinese e addirittura, per quanto può valere, dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. E questa manifestazione a Nazareth di circa 200 persone si è scontrata e qua arrivano i caffè, ringraziamo Irgiova, grazie Giova, e 200 manifestanti si sono scontrati con la polizia sionista in una manifestazione di 3.000 persone e poi è seguito l'arresto di altre 16 persone. E quindi altri 4.000 manifestanti circa si sono riuniti invece nella città di Ramallah e altre migliaia nella città di Nablus. E quindi questa è una risposta di tutta la Palestina. La Palestina spesso sta più avanti dei suoi leader, visto che mentre i suoi leader, o almeno parte della sua dirigenza, e qua non facciamo nomi, anzi facciamoli, l'autorità nazionale palestinese e l'OLP, e insomma la dirigenza di Fatah, Mahmoud Abbas e via dicendo, continuano a sostenere questa ipotesi folle dei due popoli, due stati, come se esistessero due popoli e come se potessero uno di questi pseudopopoli potesse concedere uno stato all'altro. Invece i palestinesi stanno sempre avanti e ricordano che a seconda dei confini, a seconda che, indipendentemente dal fatto che tu viva dentro la cosiddetta Israele o dentro la West Bank o in diaspora, il popolo palestinese è uno e scende sempre in piazza per i propri fratelli. Ma non solo questo per quanto riguarda la Palestina mandataria, anche però dall'Egitto si muove qualcosa. L'Egitto sotto il tallone di ferro del generale Sisi, che solo oggi mi pare ha aperto il valico di Rafah, dopo aver arrestato nel Sinai qualche giorno fa dei solidali libanesi che stavano facendo arrivare armi alla resistenza. Però ovviamente non tutto l'Egitto è quello sporco infame di Sisi e una carovana di una carovana di attivisti si è riunita al Cairo per scortare un convoglio umanitario diretto appunto verso la striscia di Gaza. Il convoglio del popolo, così è stato chiamato, era stato organizzato da vari gruppi politici e da attivisti indipendenti. Tra i gruppi politici ricordiamo il Movimento 6 Aprile, i socialisti rivoluzionari, da cui pigliamo la notizia, il partito per il Forte Egitto, il partito Dustur, studenti di numerose università e alcuni gruppi di lavoratori della Petrotrade, dell'autorità di trasporto pubblico, della compagnia elettrica nazionale e della Flex Plastic, la fabbrica Flex Plastic. Gli attivisti si sono incontrati, sono radunati il 19 di luglio di fronte al sindacato dei giornalisti al Cairo alle 4 del mattino. Erano 11 autobus e un convoglio medico e malgrado appunto le minacce messe in atto dal regime sono partiti. Avevano tutti i vari documenti necessari per far passare gli aiuti medici e noi ci pigliamo il goccetto di caffè e malgrado tutto si aspettavano di non riuscire nemmeno a partire e invece sono riusciti ad arrivare, cioè almeno un solo autobus è riuscito a raggiungere la città di Ismailia, che sta a est del canale di Suez, che ricordiamo è il punto appunto posto di blocco naturale dove in genere vengono fermati questi convogli, anche se in passato nemmeno venivano fatti partire dal Cairo. E ci finiamo il caffè, grazie di nuovo Giova. I bus appunto sono riusciti a raggiungere Ismailia, sono stati scortati dalla polizia, Hanno passato appunto il canale di Suez i compagni socialisti rivoluzionari dicono che in quel momento sono rimasti attoniti perché nessuno ha controllato i loro documenti. Il convoglio è stato fermato al checkpoint di Balusa nella parte settentrionale del Sinai. Dopo aver aspettato qualche ora, la polizia che appunto tiene i checkpoint, l'esercito nato dagli accordi di Camp David con l'entità sionista, ha detto: no, per la vostra sicurezza e per ordine dell'intelligence militare noi non vi possiamo far passare, tornate indietro. A quel punto le 500 persone che conformavano il convoglio hanno bloccato la strada, hanno fatto una manifestazione lanciando cori contro il regime di El-Sisi e poi sono stati costretti a tornare indietro. E questo però non sarà l'ultimo convoglio che verrà organizzato dai compagni egiziani, dai rivoluzionari egiziani, che malgrado quel governo di merda gestito da quel fascista che in un anno ha fatto più prigionieri politici di quanti ne abbia fatti Pinochet in 17 anni, malgrado questo appunto loro porteranno il loro sostegno alla resistenza palestinese e ricordano che la strada per la Palestina passa anche attraverso l'abbattimento delle dittature arabe. Invece, atto di solidarietà che è riuscito ad andare a segno, quello del governo ecuadoriano, non lo so come si dice, che ha richiamato il proprio ambasciatore a Tel Aviv e ha espulso l'ambasciatore sionista. Questo atto è venuto a seguito di una lettera aperta firmata da oltre 500 accademici in tutto il mondo che urgevano appunto il boicottaggio, costituzione di un embargo militare contro l'entità sionista. Il governo ecuadoregno ha espulso l'ambasciatore sionista, ha ritirato il proprio ambasciatore e si sta aspettando che anche il Sudafrica faccia lo stesso. All'inizio sembrava i legislatori sudafricani, facendo anche un riferimento diretto alle similitudini tra ciò che hanno vissuto i sudafricani e l'apartheid sionista, hanno detto al governo di rompere anche là i rapporti diplomatici. Il governo all'inizio ci aveva pensato, dopo un incontro con dei funzionari sionisti poi ci ha ripensato, e infatti è uscito un articolo su Electronic Intifada a firma di Ronnie Kesslers, un attivista contro l'apartheid che ora è un attivista in solidarietà con il popolo palestinese, che accusa apertamente sia l'ANC, l'African National Congress, quello che fu il partito di Nelson Mandela, sia il SACP, cioè il South African Communist Party, in cui dice esplicitamente che fanno un utilizzo ipocrita della solidarietà con il popolo palestinese, che per quanto si possano riempire la bocca di parole di sostegno e solidarietà, fanno comunque affari con i sionisti. Noi ovviamente speriamo che il popolo, noi nei governi ci crediamo poco, speriamo sempre che i popoli superano i governi, e quindi speriamo che il popolo egiziano, il popolo sudafricano e tutti quanti i popoli liberi del mondo possano dare il loro sostegno e possano mettere qualche piastrella, un po' di asfalto sulla strada che porti alla liberazione della Palestina.

E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi, anzi purtroppo in questi giorni solo di aggiornamenti dalla Palestina occupata. Ci arriva, abbiamo appunto dato un po' di aggiornamenti e mo capiamo cosa dobbiamo fare a sostegno del popolo palestinese. Lo ha detto già la canzone che abbiamo sentito prima, in cui si diceva appunto di rialzarsi in piedi e di sostenere attivamente, senza cascare in discussioni sterili e inutili, la popolazione palestinese. Noi possiamo dire che la prima cosa più immediata che possiamo fare tutte e tutti è intensificare i nostri sforzi per il boicottaggio dell'entità sionista, dell'economia sionista, e ricordando che e qua ci riprendiamo un articolo di Comunia Network, la solita guerra dell'occupazione, in cui si ricorda che quello che sta avvenendo, quello che oggi è la Palestina, cioè in Palestina oggi c'è una colonizzazione, l'ultima colonizzazione europea in giro per il mondo, e sebbene nel passato e anche oggi tutte le colonie sono state costruite con una formula politica che una volta, pensiamo alle crociate o anche oggi, se pensiamo alle crociate era la difesa della Terra Santa, o magari nell'Ottocento era il fardello dell'uomo bianco che doveva civilizzare i poveri popoli extraeuropei considerati inferiori. Oggi si dice che bisogna creare appunto un rifugio sacro in cui tutti gli ebrei possano trovare rifugio. Questo ovviamente è fuffa. Le colonizzazioni, tutte le colonie sono nate per sfruttare le popolazioni autoctone e le popolazioni colonizzate e i loro possedimenti naturali, le loro risorse naturali. L'occupazione sionista della Palestina non è da meno, e quindi la cosa più immediata che noi possiamo fare è cominciare a boicottare, come abbiamo sempre detto da questi microfoni, l'economia sionista. Ovviamente c'è chi dice, questa qua è un appello che è stato lanciato ormai nel 2005 praticamente dalla totalità delle associazioni, dei sindacati e delle organizzazioni politiche palestinesi, lo dicono loro, ovviamente hanno detto anche, è un, appunto una voce che arriva direttamente dai palestinesi stessi, ovviamente non si tratta, come dice qualcuno, di boicottare i prodotti delle colonie, quelli della West Bank, ma di boicottare tutti i prodotti israeliani, perché tutta Israele è una colonia, e da Tel Aviv ad Haifa, a Jaffa, a Gush Etzion e via dicendo. E oltretutto, anche se ammesso e non concesso che ci sia una parte buona di Israele, che è appunto quella occupata nel 48, e una cattiva, che è quella occupata nel 67, noi non ci crediamo, ma ammettiamo e non concediamo, le due economie sono strettamente interconnesse, tant'è che si è aperto un baratro legislativo ora che l'Unione Europea ha recepito la propria condanna che ha fatto 10 anni fa del muro dell'apartheid, ha detto ok, tutto ciò che si trova oltre il muro dell'apartheid non può ricevere sovvenzioni europee, e là si è aperto un buco nero, perché dice ok, molti di questi progetti con le università, che ne so, di Tel Aviv hanno però delle succursali nelle colonie. Quindi noi diciamo all'Unione Europea: semplificatevi la vita, boicottiamo completamente l'economia israeliana, e creiamo un embargo di armi, delle armi che vanno a Israele, boicottiamo la produzione artistica e culturale di Israele, perché ricordiamoci che non possiamo non possiamo accettare che un ad esempio un professore di un'università israeliana venga in Italia, dice ok, ma magari quella è cultura, no, quella non è cultura, il professore dell'università israeliana lavora in un ente universitario che è razzista e che prospera sull'occupazione, e quindi quella non la possiamo considerare cultura, ma dobbiamo considerarla un frutto dell'oppressione. E quindi finché non, ai palestinesi non verranno concessi il diritto all'autodeterminazione e al ritorno nelle proprie terre, non ci potrà essere nessuna produzione culturale da parte degli occupanti. E quindi anche gli universitari, la produzione artistica, devono essere boicottati. Anche perché spesso, molto spesso, vengono sostenuti e finanziati dagli stessi ministeri che poi vanno a praticare l'apartheid e l'occupazione razzista nei confronti dei palestinesi, magari soltanto per lavarsi la faccia e dire no, vabbè, ma noi siamo tanto democratici, facciamo parlare tutti. A noi queste cose non ci piacciono, noi chiediamo un boicottaggio totale e diretto di tutti gli interscambi commerciali con l'entità sionista. Non un euro deve andare a Tel Aviv e non un euro deve arrivare da Tel Aviv, non un professore universitario, non un libro e non una produzione artistica o culturale deve arrivare da una università sionista, e né deve ovviamente andare da un'università italiana verso i territori occupati palestinesi. E quindi questo è il primo passo. Il secondo passo è ovviamente quello di sostenere la resistenza palestinese in ogni sua forma. Ricordiamoci che i popoli sono i popoli che scrivono la storia. In passato le occupazioni militari, le occupazioni coloniali sono state scalzate via da piccoli popoli, ovviamente non piccoli dal punto di vista umano, dal punto di vista della forza economica, militare e dai sostegni internazionali. Piccoli popoli hanno preso e liberato la propria terra cacciando via coloni di grandi stati, pensiamo alla Francia, pensiamo agli Stati Uniti e via dicendo. Ovviamente il riferimento diretto alla lotta di liberazione algerina, che è stata sotto per 130 anni sotto scacco francese, e dopo anni di lotta senza tregua quel piccolo popolo degli algerini, quel piccolo grande popolo, ha rimandato a casa i propri occupanti. Lo stesso è avvenuto con i vietnamiti e lo stesso è avvenuto in tutto quel processo di decolonizzazione che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha portato alla cacciata dei bianchi dal continente africano ed asiatico e latinoamericano. Ovviamente purtroppo la colonizzazione è rientrata in maniera più subdola, in maniera tramite la pseudo-cooperazione economica e via dicendo, però diciamo quello è stato un primo passo che è avvenuto con varie forme di resistenza che nei casi che abbiamo citato hanno visto anche la lotta armata. All'epoca la sinistra internazionale sosteneva tutte le forme della resistenza anticoloniale. Oggi purtroppo, soprattutto dagli accordi di Oslo in poi, la sinistra italiana si è piegata al rispetto dei diritti umani e alla non violenza. Nessuno avrebbe mai detto negli anni 50 a Bembella o a Ho Chi Minh di deporre le armi per liberare il proprio paese. Oggi purtroppo lo si fa. Forse dovremmo, come abbiamo detto la settimana scorsa, dovremmo leggere un po' meno Gandhi e riprenderci Fanon e sostenere tutte le forme della resistenza palestinese, la resistenza non violenta, la resistenza armata, e ricordandoci sempre che i colonizzatori non lasceranno mai spontaneamente la propria posizione di privilegio, ma l'hanno sempre lasciata una volta ogni qualvolta che i popoli sottomessi gli facevano sentire il cosiddetto pepe al culo. E quindi noi speriamo che presto la resistenza palestinese sia abbastanza... possa appunto rialzarsi e far sentire il pepe al culo all'occupante sionista, e intanto i compagni italiani, il loro sostegno lo danno. Venerdì scorso, il 18 di luglio, un gruppo di antifasciste e di antifascisti di Roma è andato qua ai Castelli, venuto qua ai Castelli, a Pomezia, alla sede della Northrop Grumman Italia, che è una controllata di Finmeccanica che produce delle componentistiche per gli M346, aerei militari acquistati dai sionisti per addestrare i piloti che in questi giorni stanno devastando la striscia di Gaza. E quindi gli antifascisti e gli antifascisti sono andati a sanzionare la filiale pometina di questa fabbrica di morte. Noi ovviamente sosteniamo tutte queste azioni. Cos'altro possiamo fare? Ovviamente scendere in piazza con azioni serie e concrete sul campo, come avverrà ad esempio giovedì prossimo alle ore 18 a Roma, piazza Vittorio Emanuele, dove tutte le realtà del Lazio solidali con il popolo palestinese, oltre alle comunità arabe e palestinesi di Roma e del Lazio, faranno una manifestazione per chiedere l'immediata protezione internazionale dei civili a Gaza e in Cisgiordania, per chiedere l'embargo militare sull'entità sionista e le sanzioni a tutti quei paesi, in primis gli Stati Uniti e l'Europa, che garantiscono forniture militari all'entità sionista, con le stesse forniture militari che in questi giorni stanno venendo utilizzate per massacrare la popolazione. Si chiederà anche il processo per crimini di guerra dei vertici militari e politici dell'entità sionista, e infine ci sarà ovviamente la chiamata a intensificare le azioni di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'entità sionista. Quindi l'appuntamento è per questo giovedì alle ore 18 per un corteo a Piazza Vittorio di tutti i solidali di Roma e del Lazio. Noi ovviamente non andremo in onda per essere presenti alla manifestazione, e poi anche altre azioni verranno fatte durante la settimana, ve ne renderemo note quando verranno rese note, ad esempio oltre a sostegno con la popolazione palestinese anche a sostegno con i solidali francesi che in questi giorni, ma da più di qualche giorno veramente, ma in questi giorni Hollande ha dato proprio ha fatto capire veramente che tra il socialismo e la barbarie preferisce la barbarie, e quindi noi appunto ci saranno delle mobilitazioni anche a sostegno dei solidali francesi. Facciamo un altro breve stacco musicale, questa è la nostra consueta sigla dei Dark Team, gruppo rap di Gaza, Vittorio Arrigoni, Una Dicum. بتاسة في الوطن من أجل دمك أخي أرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي تبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم مشيت على الايادي للايادي مساعد محمل موت مطابق بالصوت رافض السكوت الشعب احكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سي فيتوريو اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة احكي فيتوريو احنا إلنا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا اناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض تحت نعالكم واقول افيكم اناديكم اناديكم اناديكم E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione purtroppo in questi giorni di luglio, piovosi di luglio, di soli aggiornamenti su ciò, sulla dura repressione sionista contro la Striscia di Gaza. Abbiamo appunto parlato di ciò che sta avvenendo, però ora cambiamo argomento, andiamo su un qualcosa che seppur mosso dal momento tragico è comunque un qualcosa di un po' più allegro, perché ci arriva dai nostri compagni in Sardegna un comunicato di un'iniziativa di cui appunto andiamo a leggere il comunicato. Il comune di Villasor, la Proloco, l'associazione Amicizia Sardegna-Palestina, l'associazione De Alma in collaborazione con Stage Diving Production, il Teenage Lobotomy Fest, sono lieti di presentare un evento unico in Sardegna, il Festival Space of Freedom. Il festival si terrà il 22 e il 23 agosto 2014 a Villasor, spero che la pronuncia sia giusta, il mio sardo è peggiore del mio arabo, al parco comunale Sisca. Ad alternarsi sul palco, per 8 ore di musica senza sosta, ci saranno numerose band provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo del festival consente il finanziamento dei progetti Handalava Scuola e Bait al-Karama, che sostengono il diritto allo studio dei palestinesi vittime dei bombardamenti nella Striscia di Gaza, che sono il vero motivo che hanno spinto gli organizzatori ad impegnarsi nella manifestazione. Il festival è organizzato con lo scopo non solo di ascoltare della buona musica con i 18 gruppi presenti, tra cui Raised Fist, Demented Are Go, Medicine, Machete Warriors, Payback, Marco Amar Band, King Owl, Menhir, Tsoku, Alma Mediterranea, Drer e tanti altri, ma di creare un momento conviviale di condivisione attraverso lo sport, la solidarietà e l'aggregazione sociale. A tal proposito, il Parco Sisca verrà attrezzato ad area camping, area graffiti, area giochi per bambini ed area skate park ed extreme games. Inoltre, si potranno visitare gli stands di informazione e artigianato allestiti per l'occasione. Il costo del festival è di 30 euro, compresa la sosta camping, mentre per una singola giornata è di 20 euro. Il festival è inserito nel circuito Ticket One online per l'acquisto delle prevendite, e quindi noi in genere non diamo informazioni di iniziative di, beneficenza di raccolta fondi, però noi anche qua ai Castelli Romani abbiamo sostenuto in passato il progetto Handalava Scuola, insomma sono progetti meritori, quindi ricordiamo 22 e 23 agosto a Villasor in Sardegna, al Parco Comunale Sisca, il Festival Space of Freedom, per i bambini, per garantire il diritto allo studio dei bambini palestinesi della Striscia di Gaza. Noi vi salutiamo e torneremo presto a darvi forse anche domani aggiornamenti su ciò che avviene dalla Striscia di Gaza. Ovviamente un abbraccio, ricordiamo appunto oltre al finale di agosto in Sardegna, ricordiamo giovedì il corteo alle ore 18 a Piazza Vittorio, da cui Castelli per la Palestina e Radio Default daranno una diretta a Twitter, sempre che il mio telefono riesca a installare l'applicazione per Twitter. Siamo la radio web meno tecnologica della storia delle radio web, quindi ore 18 a Piazza Vittorio, corteo con la resistenza palestinese, con il popolo palestinese che resiste, e noi vi diamo appuntamento forse a domani, forse a venerdì, vi lasciamo con un'ultima canzone, una canzone Udrub Tel Aviv 2.0, canzone nata appunto durante canzone rap il cui titolo significa colpire, colpire Tel Aviv, perché a noi i razzi della resistenza non siamo né la Mogherini né la società incivile italiana, noi i razzi della resistenza ci piacciono e questa canzone è stata fatta apposta per ricordare che il popolo palestinese, per quanto possa essere bombardato, non accetterà mai supinamente l'occupazione e che le proprie... per quanto possano cadere le bombe sui palestinesi, ogni palestinese sa che il proprio diritto all'autodeterminazione e al ritorno nelle terre di Palestina sono dei diritti inviolabili e sacrosanti. Quindi buona libertà a tutti e a tutti, ai castelli romani in Italia e in Palestina. المقاومة تقصف وتعلن هناك مزيد من المفاجأة ناصف لقد قصفت تل أفيف وخفة ويفة وعكا والخضرة وديمونة وأسكالان إسرائيل كلها تخت الكسف شاد البوريني وقاسم النجار اضرب اضرب تل أبيب اضرب اضرب تل أبيب ضربناها أول مرة وهينا رجعنا وعدنا الكرة اقصفهم واطلعهم برا واضرب اضرب تل أبيب اضرب اضرب تل أبيب هاجمتونا من سنتين وردينا الصاعد صاعين لعيونك يا فلسطين بدنا نضرب تل أبيب أنا واضرب واضرب تل أبيب نتنياهو يا ابن ليش تكرر نفس اللعبة اسمع رد بلادي وشعبي واضرب اضرب تل أبيب ادعس ادعس تل أبيب يعني نتنياهو خبرهم يا الحرق ومحمد بلغهم بكره ان شاء الله رح نحرقهم احرق احرق تل أبيب وبدنا نحرق تل أبيب من شوفات الغضب علنا اتقدمنا وما استسلمنا وبالداخل رفرف علمنا واضرب اضرب تل أبيب اضرب اضرب تل أبيب من شعفات القدس الشعلة ومن عكا يافا والرملة ومن كل بلاد المحتلة بدنا نضرب تل أبيب انا واضرب واضرب تل أبيب المستوطن يلي اجرم غير القوة لا ما بيفهم يا شعب تحدى وتقدم واضرب اضرب تل أبيب اسلخ اسلخ تل أبيب مستوطن يا بطاقية متخبه مثل السحلية بدي دوسك تحت جرية بدي ادعس تل أبيب انا وادعس وادعس تل أبيب شعب الجبارين وبدنا نضرب تل أبيب بدنا ندمر تل أبيب قاوم يا فلسطيني قاوم عن حق بلادك لا تساوم في مدرسة الثورة داوم واضرب اضرب تل أبيب أنا واقصف اقصف تل أبيب هذه أرضي يا مستعمر وإن كانك فينا مستهتر صواريخ الدنيا رح تمطر واضرب اضرب تل أبيب واضرب اضرب تل أبيب ولع ولع اضرب كسر دمر اقصف كل جنب اهبط شوف اخطف خلي الاسرائيلي يرجف اضرب اضرب تل أبيب شرشح شرشح تل أبيب سجل واكتب يا تاريخ شعب بيضرب صواريخ ومن الولد حتى الشيخ بدنا نقصف تل أبيب بدنا نضرب اضربهم كسر ضربات اشتقنا لصوت الصفارات بالقدس وحيفا وايلات دمر دمر تل أبيب فجر فجر تل أبيب الفلسطيني ما بتهدد ما بتراجع ما بتردد كرمال الطفل اللي استشهد بدنا نزلزل تل أبيب بدنا نزلزل تل أبيب كل الضربات الجوية البرية والبحرية ما بتهز المعنوية بدنا نضرب تل أبيب الله يهدك تل أبيب راح تقضيها يا اسرائيلي بالملاجئ ليلي ليلي انتو اللي اشعلتوا الفتيلي الله يهدك تل أبيب الله يهدك تل أبيب هيا يا صاروخ الاحرار وانت بسما حيفا طيار سلم لي على الهدار وميل على تل أبيب وميل على تل أبيب القبة الحديدية فشلت والجرف الصامت ما نفعت وهي حيفا المحتل انقصفت وهينا دعسنا تل أبيب لك هينا قصفنا تل أبيب ولع ولع القاصف ولع ولع ولع القاصف ولع وصلوا الفدعية شجعان على سواحل عسقلان اشتبكوا مع جيش العدوان وذلوا جنودك تل أبيب ذلوا جنودك تل أبيب